piangerò mai sul denaro che spendo, ne riavrò forse più, ma piango l'amore di un'unica donna che non ho forse più. Accendilo tu questo sole che è spento, l'amore lo sai scioglie i cuori di ghiaccio, che sarà di me se perdo anche te, ah, se perdo anche te. La vita non è stare al mondo cent'anni se non hai amato mai. Amare non è stare insieme. Oh, questo era Gianni Morandi, Se perdo anche te, rifacimento di una cioè la cover di un brano di Neil Diamond, Solitary Man, gran bel pezzo. Ma poi spiegheremo anche perché la scelta di questo brano di Gianni Morandi. Però dobbiamo cominciare questo spazio che da alcune settimane stiamo riservando al Teatro Valle Occupato, perché abbiamo con noi il professor Lorenzo Daccardi. Intanto benvenuto. Grazie. Che ci parlerà un po' di bene comune e lo farà con Daniele, giusto? Con Guido. No, con Guido. Prego. Qua parliamo di bene comune e beni comuni. Professore, mi dica un attimo, secondo lei qual è la differenza, insomma, tra questi due concetti? I beni comuni. Allora do una traduzione al professore, con ciò che ha detto il professore. Allora, fondamentalmente voleva dire che il bene comune in realtà è un concetto cristiano-cattolico. Viene dalla tradizione cattolica, se ne parlava anche in assemblea costituente, quindi è il bene di tutti fondamentalmente, è un concetto che viene da Tommaso d'Aquino e da tutta la teologia riguardo al concetto appunto di bene comune. I beni comuni sono tutt'altra cosa, sono un istituto giuridico molto preciso che ha a che fare con la funzionalità di un bene, quindi si distingue sia da bene privato che da bene pubblico. Sono quei beni definiti come beni funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo della persona umana, come definiti insomma dagli studi anche della commissione del professor Rodotà, e si identificano appunto come questi spazi che in questo periodo storico tra l'altro sono occupati e restituiti in tutto il territorio nazionale. Ci sono molti esempi, oltre al Teatro Valle ce ne sono molti altri, Cinema Palazzo, Scoop è un altro esempio, ma anche fuori da Roma, insomma da Messina, Milano, a Venezia, a Napoli, insomma abbiamo un movimento legato a questo tipo di istituto, ed è un istituto giuridico che identifica questi beni anche ovviamente come beni in cui tutta la comunità, la cittadinanza opera una cura, opera un lavoro di cura e di per creare nuovi spazi di socialità. Fondamentalmente questi beni comuni si identificano come spazi in cui si sperimenta una nuova socialità. Ecco, proprio a proposito di spazi, cosa domandiamo al professore? Diciamo in questi ultimi tempi, anche proprio negli ultimi giorni, si sono verificati delle azioni, diciamo, di repressione riguardo a queste azioni di liberazione, sì, di restituzione di questi spazi. Ci dica, professore. I beni comuni, Bartleby, beni comuni. Benissimo, professore. Allora do insomma una traduzione di ciò che ha spiegato molto esaurientemente il professore. Allora, intanto cominciamo da Scoop, che è stato esplicitamente nominato dal professore. Scoop è una palestra, diciamo, popolare, in uno spazio occupato nel quartiere di San Giovanni, in cui c'era una palestra per bambini, in cui c'era una biblioteca, in cui, insomma, si era formato uno spazio in cui il quartiere ritrovava appunto delle possibilità di socialità, appunto per portare i bambini, uno spazio di cultura, uno spazio in cui ci si rincontrava, tutto il quartiere si rincontrava, e è stato inaspettatamente sgombrato da più di qualche blindato della polizia 3 giorni fa. 3 o 4 giorni fa, ora non ricordo, ma è stata un'azione assolutamente inaspettata, perché era uno spazio che era molto importante per il quartiere, e in realtà però contrastava con degli interessi proprietari, fondamentalmente. Questo poi è il problema di questo periodo. E nella stessa giornata, il giorno stesso, è stato rioccupato un altro spazio, perché il quartiere ovviamente si è mosso insieme a un raggruppamento di giovani, di persone che hanno protestato contro questa azione repressiva, e è stato riconquistato un altro spazio e liberato un altro spazio, che era una palazzina dell'ATAC abbandonata da anni. Questo è un chiaro esempio per cui gli interessi proprietari delle grandi proprietà contrastano con la tutela dei diritti della popolazione, dei diritti fondamentali, di spazi in cui ci si può rincontrare, in cui il quartiere può vivere veramente. Situazioni simili si stanno verificando a Bologna, a Bartleby, per esempio, che è stato anche quello uno spazio sgombrato e che ha rioccupato dopo pochissimo tempo. Siamo stati anche giù a Messina, in cui si è occupato il teatro in fiera, fa parte di uno spazio di 50.000 metri quadri, abbandonato anche quello da anni, in riva al mare, un posto meraviglioso, e lì c'è tutta la città che si è mossa, quindi non solo lavoratori dello spettacolo, ma anche artigiani e cittadinanza attiva in generale, e sta succedendo una cosa bellissima, perché tutta la città si sta muovendo per rivitalizzare questo spazio. E per ultimo possiamo parlare anche di ciò che è successo all'ex asilo Filangieri. Mm-hmm. Mi dica, professore. Napoli, beni comuni. I beni comuni, usi civici. Carta della foresta. Molto bene. E il professore naturalmente accenna a questo concetto, a questo istituto, il concetto di uso civico, che viene molto da lontano. L'uso civico sono degli usi tradizionali, che vengono, insomma, da una tradizione secolare delle comunità territoriali, che utilizzavano con modalità di proprietà collettiva e di uso collettivo di questi spazi, che erano funzionali a reperire cibo, a reperire legna per scaldarsi, e sono tradizioni che vengono addirittura dal Medioevo, che hanno resistito, diciamo, alla limitazione, all'attacco del diritto proprietario, che ha limitato molto queste pratiche. Addirittura vengono definite come proprietà promiscue, quindi dando un'accezione appunto negativa da un punto di vista cattolico, naturalmente, ma in verità sono delle tradizioni molto importanti, perché si legano, appunto, come diceva giustamente il professore, alla Carta della Foresta, che è stata una delle prime carte costituzionali, subito dopo la Magna Carta, che come sappiamo tutti è stata la prima carta costituzionale del mondo occidentale. È stata redatta anche questa Carta della Foresta, che permetteva ai commoners, cioè ai cittadini liberi, di usufruire di campi per coltivare, di boschi dove poter reperire appunto legna o selvaggina per il soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione, ed era tutelato questo bisogno a livello costituzionale. I beni comuni. Ringrazio molto il professore, è stato molto esauriente e molto prezioso il suo contributo oggi. Grazie e alla prossima volta. Grazie a voi. L'orologio batte l'una, sei fuori chissà dove, giro nudo per la casa, dimmi tu se questa è vita, tu che esci con le amiche, dici, io che resto che a pensare, ora, se poi vero per davvero, o ti vedi con qualcuno, guarda un po' televisione, c'è del pollo dentro il frigo, mangio e provo a immaginare le tue mosse e le parole, è che sono un po' geloso, scemo, ma ti amo per davvero, vero. Sì, va bene l'autonomia, ma ricorda che sei mia. Eccoci qua di nuovo con il Valle Occupato in studio, abbiamo appena avuto 15 minuti di grande cultura legale, civica, il diritto che riprende vita, e dato che siamo molto molto in vita tutti quanti al Valle Occupato, io sono molto in fissa, visto che ne parliamo spesso delle nostre fisse con la newsletter, e ve la vado a raccontare. Questa settimana non ci stanno tante cose, ma sono tutte belle, corpose e sostanziose. La prima di cui vi parliamo è Tansight, questo progetto che abbiamo lanciato al Valle, che inizia sabato e che continuerà tutta la settimana, e si parla di danza contemporanea nelle scuole dell'obbligo. Vai Elisa. Tansight è un progetto di danza contemporanea nato a Berlino grazie alla coreografa Livia Patrizzi, che ha lo scopo di sensibilizzare lo studio della danza contemporanea all'interno delle scuole dell'obbligo. Dal 2005 lavora nelle scuole ed è riuscita a inserire 2 ore consecutive all'interno del curriculum e delle ore scolastiche regolari, e viene patrocinata dal Comune di Berlino. Noi del Teatro Valle ci siamo affezionati subito a questo progetto e siamo riusciti a inserirlo all'interno del calendario della stagione invernale. Partirà il 2 febbraio con un workshop intensivo di 2 giorni, dal 2 al 3 febbraio, curato e diretto dalla coreografa Liva Patrizzi, per insegnanti, formatori e danzatori coreografi. E al susseguirsi troveremo un altro workshop dedicato agli studenti delle scuole superiori dell'obbligo di Roma, che siamo riusciti a coinvolgere, e ci hanno anche risposto in maniera abbastanza positiva e partecipata, e avrà inizio il 4 febbraio fino all'8, un workshop che si terrà dalle 15.30 alle 18.30. Un altro appuntamento molto importante sarà quello del Common Café il 5 febbraio, dove la compagnia di Berlino ci racconterà questa esperienza e ci parlerà della formazione e del rapporto tra scuola e danza contemporanea. In realtà, insomma, noi al Valle stiamo un po' lanciando una specie di sasso nell'acqua, che forse farà solo un gran buco, ma noi speriamo di no, perché l'idea è quella di, appunto, proporre un progetto del genere, che in Germania non ci ha messo relativamente poco a diventare istituzionale, insomma, relativamente. Mi fanno segno che non è vero, ci sono voluti 7 anni, però insomma, rispetto ai nostri ventennali che passano così come se fossero acqua fresca, direi che 7 anni sarebbe una bella vittoria. Quindi la cosa interessante, ti volevo chiedere Elisa, di questi laboratori, soprattutto con i ragazzi, è l'insegnamento peer to peer. Giusto? Certo, dai, spiegacelo. Dunque, questo workshop dedicato agli studenti delle superiori sarà diretto direttamente dai ragazzi della compagnia giovane di Berlino. Sono ragazzi dai 16-18 anni che insegneranno ai ragazzi delle scuole, quindi ci sarà un insegnamento peer to peer alla pari, e questo è un discorso che, diciamo, il Valle Occupato ci tiene molto a sottolineare, perché cerchiamo di sperimentare nuove forme di insegnamento. Ci hanno fatto credere che esiste solo un modo di formazione, solo un modo di apprendimento, un solo modo di curare, diciamo, l'arte e anche la politica, e a noi ci piace sperimentare, quindi sperimenteremo e porteremo questo progetto che hanno già invece sperimentato in altri paesi, e ci teniamo molto al confronto e a capire come possiamo portare queste nuove pratiche anche in Italia. Quindi un focus molto molto molto importante sulla formazione, appunto, che è una cosa a cui il Valle tiene molto. E ricordo l'appuntamento che ha lanciato prima Elisa, cioè il 5 ci sarà un Commons Café, quindi uno spazio aperto di discussione sulla formazione, in cui vorremmo appunto confrontarci con il sistema tedesco rispetto al nostro non sistema italiano, e anche perché vorremmo in quell'occasione, e questo è un appello che io faccio a tutti i formatori professionisti, ai danzatori professionisti, ai professionisti, agli artisti della scena, ovvero creare un gruppo che poi si prende in carico questo progetto, cioè il tentativo di attuarlo anche in Italia con le nostre forme e con le nostre peculiarità. Insomma, siate numerosi, sarà una settimana dedicata completamente alla danza contemporanea, ci terremo a condividerla con tutta la città di Roma. Ricordiamo che c'è una mail, tanzaite.tv@gmail.com, per eventuali prenotazioni. Ci siamo dimenticati gli spettacoli. Esattamente. Gli spettacoli, che sono insomma diciamo una cosa portante della settimana. Sì, questa compagnia non solo farà formazione, ma ci porterà anche degli spettacoli che avranno inizio venerdì alle ore 11, diciamo che è un orario per le scuole, e debutteranno invece venerdì alle ore 21 e sabato alle ore 21. Lo spettacolo si chiama Vaft. Chi ha paura della danza, ovviamente in italiano. E un'ultimissima cosa, tutti e due i laboratori, sia per gli adulti che per i ragazzi, sono aperti agli uditori, quindi venite a vedere quanto è bello danzare. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello ma accanto a sé aveva mille donne e sé. Cantava Help e Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Oh Yesterday. Cantava viva la libertà, ma ricevette una lettera, la sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop con Rolling Stones, stop con i Beatles Stones, m'ha detto va nel Vietnam e spara i Vietcong. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo. Rieccoci qua con la newsletter, secondo appuntamento della settimana, uno spettacolo teatrale che si chiama Primo Amore, diretto e interpretato da Paolo Zuccari, il testo... Letizia Russo. Grazie, c'avevo veramente il vuoto. Meno male che siamo tanti. Ok, quindi adesso abbiamo uno dei nostri collegamenti telefonici che tanto ci piacciono, con Paolo Zuccari, intervistato da Daniele. Che professionisti. Pronto? Pronto? Ciao Paolo, sono Daniele. Ciao Daniele, ciao. Come va? Bene, tu come stai? Bene, bene. Senti, io sono qua che mi tocca intervistarti e... Mannaggia. E appunto stavamo annunciando l'inizio delle repliche di Primo Amore, questo sì. Monologo interpretato e diretto da te, e, sì. E quindi facciamo come nelle più banali delle interviste, raccontaci di cosa parla. Allora, guarda, la storia è molto semplice, la storia di un uomo intorno ai 40 anni che dopo moltissimo tempo torna nel suo paese di origine, in una provincia dell'Italia, e va a rivedere i posti in cui appunto è nato, cresciuto, ha vissuto le prime esperienze, da cui poi è partito quando era molto giovane, quando aveva 15 anni, insomma scappò da questo posto, e c'è un mistero sul perché andò via, e questo mistero viene svelato pian piano nell'arco di questo monologo, che in sostanza racconta una intensa storia d'amore omosessuale tra lui e un ragazzo del luogo, che nel frattempo fa il barista in un bar e si è completamente trasformato, e da questo incontro tra i due parte questo flashback che ripercorre tutti insomma i tratti salienti di questa storia d'amore, la scoperta del sesso, la scoperta dell'amore, la paura, la passione, E poi vabbè, poi non so, non voglio dire troppo, però sì, a un certo punto ci saranno anche, diciamo degli svelamenti su un'interiorità, insomma, di questa persona, su quello che ha fatto in questi anni, che si è allontanato, ed è scritto in versi. Questa cosa è molto importante, perché questi versi accompagnano una musicalità dell'anima, nel senso che è un pezzo fortemente emotivo, perché appunto questo personaggio rientra nel suo passato con tutte e due le scarpe, quindi rivive, insomma, quei momenti di sensibilità, di passione, che sono dell'adolescenza, che sono anche forse le cose più forti da un punto di vista emotivo, no, che si possono provare, perché sono le prime. E quindi questi versi accompagnano questo ripercorrere delle esperienze emotive, insomma, devo dire che, insomma, questa forse è la cosa più centrale, insomma, del pezzo. Una breve parentesi, Paolo, per dirti che, a proposito di testo in versi, che è anche molto radiofonico, stavo scorrendo l'archivio del radioteatro, Primo Amore l'abbiamo fatto qui in radio nel 2009, ma era un'attrice in scena, Laura Nardi. Ah, sì, sì, so che l'ha fatto anche Laura, sì. Io non l'ho vista quell'edizione lì, però so che l'ha fatta, l'avevo anche sentita, sì, però non so, non posso dire niente perché non l'ho visto, insomma, il pezzo, però so che l'ha fatto, l'ha fatto anche girare un po'. Tu l'avevi già portato, perché io mi ricordo che l'ho visto anni fa questo... Spettacolo. Diciamo, il pezzo è nato nel 2005 ad un'edizione del Garofano Verde curata da Rodolfo Di Gianmarco, che è una rassegna di teatro omosessuale che viene fatta tutti gli anni al Belli, e da molti anni ormai, e quindi nacque proprio su commissione nei confronti di Letizia Russo, appunto, e miei, e quindi, insomma, nacque lì, insomma, fu la prima volta che venne fatto. Poi è stato fatto anche varie volte anche all'estero, insomma, è stato rappresentato parecchio questo testo. Lo sapevo. Sì, sì, in varie parti del mondo, ora non vorrei dire paesi sbagliati, però in un po' di paesi del mondo è stato rappresentato, sì. Bene, ma l'hai già fatto invece, ero curioso di sapere, perché io l'avevo visto in un contesto, appunto, quello del Teatro Belli, che comunque sia un teatro off, volevo sapere se l'avevi mai portato invece in qualche teatro, ecco, tipo il Valle, diciamo così, in qualche modo, in qualche gran teatro, ecco. Guarda, gran teatro l'ho fatto al Piccolo di Milano. Non mi ricordo che anno era, forse 2006 o 2007, però, insomma, mi ricordo l'emozione di recitare all'antica sede del teatro di Streller, insomma, quella via Rovello, quindi, insomma, un teatro abbastanza simile al Valle come struttura, come posti. Senti, e tu in scena sei da solo, no? Sei da solo, e mi sembra che anche la regia è molto, molto semplice, essenziale, da quello che ricordo. Sì, semplicissima, praticamente questo qui, insomma, a un certo punto si siede in un bar, quindi sta seduto tutto il tempo fino a che non c'è, insomma, una esplosione emotiva di rabbia, insomma, di rancore nei confronti di questa persona amata, per cui lui a un certo punto si alza da questa sedia e cerca anche un po' di distruggere questo bar, comincia a prendere a cazzotti il vetro, finché a un certo punto non se lo portano via. Però, ecco, questa cosa qua riguarda soltanto gli ultimi 5 minuti massimo, insomma, di spettacolo. Se no, per il resto è molto semplice, insomma, è una parola, una versificazione che racconta questo percorso emotivo, insomma, verso il passato, fatto di gioie anche, insomma, di dolori, delusioni, paure. Ma questo questo è chiaro, e io, vabbè, diciamo, a parte mi ritrovo così in questo ruolo da intervistatore, quindi invito tutti al Valle, ma a parte scherzi, in realtà, anche per chi non lo conosce, Paolo è veramente un attore fantastico, e poi è uno di quei pochi attori che riesce a recitare il verso con una grandissima concretezza, ecco, e quindi grazie. Quindi, diciamo, qui i tempi stringono, io quindi devo chiudere e quindi invitiamo, diciamo, gli ascoltatori di Radio Onda Rossa dal 31 gennaio al 2 febbraio, tutte le sere alle 9, e invece il 3 febbraio, che è domenica, alle 18, a vedere Primo Amore di e con Paolo Zuccari, regia e interpretazione di Paolo Zuccari, scritto da Letizia Russo. Ciao Paolo. Grazie, venite, grazie, esatto. Grazie. Un ciao. Abbraccio, ciao. Ci vediamo al Valle. Ciao, ciao, ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Sottofondo. Auto Berlinzoni. Quello che mi ha insegnato mio padre e prima di lui mio nonno è essere chiari. Siamo chiari da 3 generazioni. Quello che mi ha insegnato mio padre e prima di lui mio nonno è vendere automobili. Vendiamo automobili con chiarezza da 3 generazioni. Quello che mi ha insegnato mio padre e prima di lui mio nonno è vendere automobili lasciando all'automobilista il tempo per decidere con calma quale auto acquistare. Vendiamo automobili con chiarezza da 3 generazioni, ma lasciamo all'automobilista tutto il tempo per decidere. Un'auto forse non è per sempre, ma se hai già un mutuo per la casa e non riesci a rinunciare alla pizza del venerdì sera e in più vuoi mandare tuo figlio all'università e il tuo contratto da interinale è in scadenza, devi pensarci bene prima di acquistare un'auto. Per questo al tuo fianco c'è Auto Berlinzoni. Quello che mi ha insegnato mio padre, e prima di lui mio nonno, è l'amore per le statistiche e per i numeri. Vendiamo automobili con chiarezza da 3 generazioni e da sempre offriamo una vasta gamma di auto già incidentate. Le possibilità che un'auto faccia per 2 volte un incidente sono minime, come è minimo il tuo sforzo per acquistare un'auto da Berlinzoni. Se l'auto della nostra fantastica gamma ha già fatto un incidente mortale, le probabilità che ci muoia anche il nuovo autista sono prossime allo zero. Il prossimo autista sei tu. La garanzia è Berlinzoni. Allora, questo qui invece è un piccolo assaggio di un piccolo testo che abbiamo creato al Valle in questi giorni. Il testo è di Aram Kiam. Il testo è nato nel progetto Crisi, condotto da Fausto Paravitino, un gruppo di autori e di attori che da qualche mese stanno studiando, elaborando dei testi come in Italia solitamente non si fa, cioè prendendosi tutto il tempo che ci vuole. Questo testo si chiama Green Sauce. Ora immaginatevi delle persone anziane tra i 70 e gli 80 anni, una si chiama Clara, una si chiama Gina e poi mano a mano ne arriveranno altri. Ci vuole la mollica di pane. Ma poi si asciuga troppo. Ma deve asciugarsi. Io l'ho sempre vista un po' liquidina. Perché la fan così, ma la ricetta giusta è asciutta. Mi sembra strana. È quella piemontese. Sei sicura? Certo. Immagina, ma tu sei di Roma, come fai a essere sicura che hai la ricetta piemontese? Ho guardato su internet. La salsa verde? La salsa verde. Quella per il bollito? Quella per il bollito, si chiama anche bagnette. Ma lo vedi che se si chiama bagnette sarà liquida, è logico, no? Ma no, ma guarda anche te, prendi internet. Fammi un po' vedere. Devi scrivere salsa verde piemontese. Qua? Ma no, non là, là su Google. Salsa verde piemontese. Piemontese. Bagnette. Bagnette. Così siamo proprio sicure che lei. Che viene fuori? In cucina con Sonia. Voglio una salsina tutta verde. Bagnetto per bimbi. Bagnette, salsa verde, la ricetta del gambero rosso. Prendi quella, clicca, clicca. Se è del gambero rosso sarà quella giusta. Ma tu quale avevi visto? Non mi ricordo. Ingredienti, acciughe, e lo abbiamo fatto. Capperi. E ci sono? Aglio, ce n'è. Poco. Poco, ma ce n'è, che poi se no non lo digerisco. Prezzemolo, tantissimo, uova, olio, aceto, pepe, pane raffermo. Ah, visto? Che strano. Sì, strano ma vero, Dai, dai, che se no non finiamo più. Prendi il pane. Dov'è? Quello lì, là, nel cassacchetto. Questo? No, là, è la frutta, là. Questo? No, lasci in sale arance, lì. Ma dove? Ma lì, t'ho detto, dai, non lo vedi? Ma quei sacchetti sono finiti. Aspetta un attimo, va. Ecco qua. Ah, ma là dentro. Sì, là dentro, è mezz'ora che ti dico lì. Ma dove hai la testa, Gina? Ma Clara, ma tu mica mi hai detto dentro la credenza, eh? Ma t'ho detto lì, no? Ma Clara, dentro la... Dai, sbriciola il pane, che facciamo tardi. Che faceva Michele per l'ultimo? Non lo so mica, e non mi dice mai niente. Magari ti sei scordato, c'hai una testa, te? No, io magari perdo un po' i colpi, ma certe cose me le ricordo, eh? E gli ho chiesto, quando passi e quando ti fermi a mangiare e a dormire, ti vedo per Capodanno? Ma così, sai, tanto per sapere se devo preparare, fare la spesa. E lui? Ha fatto una capatina a Natale e poi è sparito. Ah, sei te che sbagli. E perché? Gli dai troppa importanza. Ma cosa devo fare, mio figlio? Io coi miei sono categorica, non mi faccio mica mettere i piedi in testa io. Voi avete la vostra vita? Io la mia, non mi importa mica. Fate come vi pare, basta che mi fate sapere quando venite, che mi organizzo e basta. Ma appunto, ma anch'io, perché sennò poi la spesa, come faccio a sapere cosa devo prendere? Te sbagli. Ma cosa devo fare? Sei troppo tenera. E i tuoi? L'Aldo in montagna, mi sembra. Dove? A Parma. Parma? Ma non è in pianura? Ma fuori Parma. Oh, ma non sapevo ci fossero montagne fuori Parma. Sì, lì vicino, da quelle parti. Non ho capito bene dove, ma lì vicino ci sono. E Marco? Marco? L'altro tuo figlio. Vuoi dire il Carlo? Sì, scusa, Carlo. Il Carlo è all'estero. Lui è fissato, ha detto io vado in una capitale europea perché lì è tutto più internazionale. E dove è andato? Ma non lo so mica. Per me spende un sacco di soldi per andare a stare come uno zingaro, ma... Se a lui piace... Sarà, io non lo capisco mica. L'hai poi presa l'uva al mercato alla bancarella che ti dicevo? Gina, guarda, sono andata lì e c'era uno con una boria che già l'avevo squadrato da lontano. Arrivo e gli chiedo, scusi l'uva, quanto viene? E questo? 4 euro al chilo... Ho girato i tacchi e me ne sono andata. Non gli ho nemmeno risposto. Ma vaffan piffero, 4 euro al chilo. Ho cambiato fila, sono andata dritta dove ci sono tutte le bancarelle dei marocchini indiani. 2,50 al chilo. Buonissima. Ma strano, eh? Ma sei sicura che era la bancarella giusta? Terza fila, la seconda. Venendo da Viale Cadorna, no? Sì, ma quando sei andata? Giovedì scorso. Ecco perché. Cosa? T'avevo detto il secondo giovedì del mese. Giovedì scorso era il terzo, eh. Ma davvero? Sì, eh. Santo cielo, ero convinta fosse proprio il secondo. No, era il terzo. Santo cielo, mi sembrava proprio il secondo. A volte faccio una confusione. Ero andata proprio sicura, sai, mi son detta il secondo giovedì del mese come mi ha detto la Gina. Invece... Ma cosa fai, Clara? Cosa? Ma l'aglio, Clara! L'aglio? Ma lo hai già messo, ma non ti ricordi? Poco, ma ce n'è, lo hai detto anche tu. Sì. Ma lascia, va, che sei stanca. Continuo io. Sì, brava, scusa, sai, mi gira un po' la testa. Magari mi sdraio un attimo. Tra quanto arrivano le altre? C'è tempo, tranquilla. Sdraiati, va che è meglio. Qua ci penso io. Grazie, Gina, scusa, sai, ma ogni tanto... Non ti preoccupare, vai a riposarti, su. Sì, vado a riposarmi un attimo. Gina resta sola in cucina. Un secondo dopo che... È uscita Clara, sbircia se per caso torna, poi prende l'aglio e lo aggiunge alla salsa verde. Beh, comunque era poco. Continua a mescolare per qualche istante. Eccole! Sì? Clara? Clara è di là, era stanca e... Ma prego, si accomodi. Lei è un amico di Clara? Sì, cioè, più o meno. Sono Luca, piacere. Gina, piacere mio. Vado a vedere come sta Clara, eh? Non sta bene? No, sì, sta bene. Solo un po' di stanchezza. Si è sdraiata un attimo, ma... L'avverto che è arrivato, eh? Luca si accorge della salsa verde sul tavolo. Dà un occhio da dove è uscita Gina, poi ci infila un dito e l'assaggia. Rientra Gina. Bagnette? Prego? La salsa verde, bagnette? Ah, sì, è quella piemontese! Scusi, Clara... Non sta bene? No, sì, sta benissimo, è che riposa così bene che... Certo, lasciamola riposare. Sa, le feste a volte possono essere così stressanti, i preparativi e tutto il resto, cucinare... certo, come no. Sa, Clara mica mi aveva detto niente, eh? Di cosa? Che sarebbe venuto anche lei. Ah... Ma non che sia un problema, eh? Bene, meglio così. Sì, cioè, è solo che mi aveva detto che sarebbero venute due amiche sue, ma... Vuole un prosecco? Non aspettiamo, Clara? Beh, ma mica se la prenderà se facciamo un brindisino mentre aspettiamo che si alzi, così per rompere il ghiaccio. Va bene, allora, volentieri. Gina prende il prosecco e i bicchieri. Lasci, faccio io. Oh, grazie. Luca versa il prosecco. Ecco qua. Grazie. Salute. Cin. Che succede? Buonasera, lei chi è? Maria Antonietta 69. Prego? Maria Antonietta 69. È un uomo. Beh, sì. Ma c'è qualche problema, Clara? No, è che scusi tanto, ma io ero proprio convinta... Si aspettava... È Maria Antonietta. Ma sul profilo avevo indicato il sesso. Il profilo? Il mio profilo. Ma è lui una delle amiche che aspettavamo? Sì, ma sulla chat era Maria Antonietta. Effettivamente il nome poteva essere ingannevole. Beh... La rivoluzione francese è la mia passione. E non poteva farsi chiamare Robespierre? Purtroppo era già in uso. Io avrei portato questo. Tira fuori una bottiglia di vino. Sempre che non preferiate che me ne vada via, visto l'equivoco... No! No, assolutamente! Deve restare! Ti verso un po' di prosecco, Clara? Stavamo per fare un brindisi. Sì, bene. Faccio io. Oh, grazie. Luca versa da bere a Clara. Salute, allora. Cin. Cin. Cin. Oh, ecco Celeste. Di lei sono sicurissima che è proprio lei. Sì? Clara? Sì? Celeste, piacere. Ah, lei, ma prego, s'accomodi. Piacere mio. Grazie. Lei è la mia amica, Gina. Piacere. Il signore è... Luca. Luca. Piacere, Celeste. Bene, quindi, scusi, non per ma... Cielito lindo 77? Sì, ma non c'ha mica 77 anni. Ma va, Gina! Ma non avevi detto che... Ma no, c'è una testa, te... No, è che è la mia data di nascita. Certo, è la data di nascita. Altrimenti se li portava davvero bene. Su, allora, sediamoci a tavola. Gina, dai, prendi un bicchiere per Celeste. Io prendo il bollito. Un po' di prosecco? Sì, ma non troppo, grazie. Un pochino, però sì, dai. È Capodanno. Ecco il bollito. Brindiamo allora? A questo punto direi a www.sos-capodanno.com, no? Senza dubbio appropriato. Salute. Cin. Questa scena entusiasmante, piena di colpi di scena, potremmo definirla nuova epica italiana. Vi invitiamo il 2 febbraio dalle 11 alle 17 per un'assemblea nazionale convocata dal Comitato per una nuova finanza pubblica. Mettiamoli in crisi. E già è di oggi la notizia: il 75% di spesa per le politiche sociali in meno in 5 anni. È tempo di capire meglio e organizzarci. Vi aspettiamo il 2 febbraio alle 11, assemblea nazionale. E per chiudere io ho una domanda, scusate se prendo il microfono così, e vorrei chiedere a Federico, ma perché Gianni Morandi tutto sto tempo, ogni volta, ma che t'ha preso? Cioè, mi piaceva, ma poi c'ha avuto il papà partigiano, giusto? È stato censurato per la canzone sul Vietnam, c'era un ragazzo che è come me, e poi, ma stasera mi sembra che stia a Roma e vuole anche darvi una mano in qualche modo. Vabbè, lo dobbiamo svelare, giusto? Gianni! Allora, questo è un Gianni che vuole molto bene al Valle, infatti. Ce ne vorrebbero di più, quindi stasera dalle 7 incontro con Gianni Morandi, Elio Germano, il cast di Padroni di Casa che successivamente verrà proiettato alle 21. Di Gabriellini, e quindi tutta la serata in compagnia del nostro Gianni Nazionale. Dopo il film, però. E dopo il film, infatti, schitarrata collettiva. A stasera. Grazie a tutti. Ciao. Alla settimana prossima. Ciao. Non piangerò mai sul denaro che spendo. Ne riavrò forse più.